Birgitta. C'era un ventaccio, la temperatura superava di poco lo zero e la strada era scivolosa. Nel bagagliaio dell'auto a noleggio c'erano 5 metri di cavo e una bomboletta di vernice spray nera. Birgitta aveva comprato anche una piccola cassetta degli attrezzi con martelli e cacciaviti. Eppure le sembrava di andarsene in giro con una bomba o qualche chilo di droga. Per tutta la strada, fin da Stoccolma, era stata bene attenta a non superare il limite di velocità e aveva guardato nello specchietto ogni 3 secondi, temendo di veder spuntare da un momento all'altro un lampeggiante blu. La lettera, che aveva bruciato dopo averla letta un paio di volte, era scritta in uno svedese approssimativo, così come le prime disperate grida d'aiuto postate su familielive.se. È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a 0. E poi, un'altra persona avrebbe liberato lei. Assaporava il senso di libertà in macchina. Era bello guidare senza qualcuno che commentava tutto quello che faceva. Jacob le cedeva il volante solo quando era stanco. All'inizio non voleva nemmeno che lei prendesse la patente. 20 minuti dopo superò un distributore, si fermò a un incrocio e proseguì verso Abbey. Poco oltre il cartello stradale c'era un mini market ICA. «Dopo l'ICA a destra», ripeté tra sé strizzando gli occhi nel buio in cerca della svolta. Si lasciò la cittadina alle spalle e si ritrovò in mezzo al bosco. La strada era stretta. Alla prima automobile che incrociò, ebbe quasi paura che non ci fosse spazio per entrambe, e in effetti si passarono inquietantemente vicino. Ancora 15 chilometri, poi avrebbe visto il cartello. Sperò che la donna che doveva salvare avesse fatto la sua parte. Se no avrebbe potuto andarci di mezzo qualcun altro, un innocente. Qualcuno che non meritava di morire. Birgitta non sapeva cosa avrebbe fatto se fosse successa una cosa del genere. Al solo pensiero iniziarono a sudarle le mani. Fu costretta ad asciugarsele sulle ginocchia. Erano le 16:37. Accelerò quanto glielo permetteva la strada piena di pozzanghere. Si sarebbe ghiacciata se la temperatura fosse scesa ancora di 1 grado o 2. Ad ogni modo, meglio arrivare in anticipo che in ritardo. Sperò che le istruzioni della sconosciuta fossero esatte e che fosse facile trovare il posto.